Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà Quando la femme bye. Le nostre biografie trapassano e tracimano in Wikipedia, l'enciclopedia autocostituita, l'enciclopedia fatta da volontari, l'enciclopedia che nella rete è diventato lo strumento più immediato di consultazione per chiunque voglia sapere qualcosa su argomenti di cui non ha dettagli, ha una sorta di rigida freddezza nelle definizioni. C'è scritto Gianluca Nicoletti, giornalista, che ne so, scrittore italiano, cose del genere, Pinco Pallino, impiegato italiano, Giovanna, parlamentare italiana. Su Renato Valanzasca c'è scritto criminale italiano. Evidentemente nelle categorie rigide dei compilatori di Wikipedia, che sono una categoria di persone molto scrupolose, esiste anche una categoria di criminali. Quindi Renato Vallanzasca è definito, senza che nessuno possa protestare, in maniera incontrovertibile, criminale italiano. Beh, questa mattina noi, visto che è all'onore delle cronache una polemica sulle vicende di questo criminale italiano, che è stato rappresentato in un film presentato appunto alla l'ultima mostra del cinema di Venezia, vorremmo dedicare l'intera puntata a Renato Vallanzasca, criminale italiano. Due agenti della polizia stradale, il maresciallo Luigi D'Andrea, 32 anni, e il collega Renato Barborini, 27, cadono davanti al casello di Dalmine, a pochi chilometri da Bergamo, sotto i colpi di pistola della banda di Renato Vallanzasca, ex boss della Comasina, famoso per aver seminato il terrore nella Milano degli anni 70. Un dolore per i familiari che si ripete ogni anno, un anniversario che oggi, per gli indecifrabili incroci del destino, cade proprio mentre si girano le riprese del film di Michele Placido, Il fiore del male, sulla vita del criminale Renato Vallanzasca, interpretato da Kim Rossi Stewart. Una coincidenza che 800024 0024, non so come, non so quanto, non so in che maniera, non so con quale contributo, qualcuno possa telefonare questa mattina per parlare di Vallanzasca. Mi piacerebbe però confrontarmi con il giudizio del pubblico, con la sensibilità e l'attenzione di chi mi ascolta, su questa particolare situazione. Noi ci accorgiamo, ci rendiamo conto, ci urtica la sensibilità rispetto a un problema, rispetto a una piaga nascosta, rispetto a qualcosa che abbiamo rimosso, qualcosa che colpisce fortemente la nostra emotività, la nostra sensibilità, per alcuni è motivo di sofferenza, quando questa fattispecie viene rappresentata o dal cinema o dalla televisione, quando il mondo della riproduzione, il mondo della diffusione della memoria attraverso un racconto, una riproduzione, un deposito in un supporto distribuibile di una memoria, la riporta in superficie, improvvisamente tutti riscoprono le sensibilità. Infatti nel film di Placido presentato a Venezia, la figura di Vallanzasca improvvisamente ha nuovamente diviso l'Italia su coloro che giudicano importante comunque parlare, riportare la memoria, discutere, aggiungere elementi, e coloro che pensano che ogni richiamo in memoria, richiamo in superficie della memoria profonda significhi fare una geografia. Quindi la geografia del criminale italiano non vada fatta. La malavita di oggi non è quella che conoscevo io, quindi sono fuori dal mondo. Io non ho mai fatto il pentito. Ci sono tantissime cose che non rifarei, quello è un altro discorso. Però mi sento lontano da quello che poteva essere il mio mondo. Sicuramente cambiato, invecchiato probabilmente anche, purtroppo. Però sento che se fossi stato un furbo sarei uscito prima di galera. Questo era Renato Vallanzasca, intervistato da Pippo Baudo. Quindi probabilmente nelle analisi delle memorie riprodotte bisognerebbe dare un'occhiata agli archivi. Se Vallanzasca è stato intervistato da Pippo Baudo, potrà dire la sua: il criminale Vallanzasca, carapinato, ucciso, in carcere, accoltellato e tagliato la testa all'ex componente di 20 anni della sua banda, dicono ci abbia giocato a calcetto, quindi ha compiuto le più terrificanti efferatezze. Può andare nella televisione nazionale popolare di Pippo Baudo, probabilmente un margine di liceità che venga rappresentato al cinema c'è. Ma riguardando anche le memorie passate, forse qualcuno avrebbe dovuto accorgersi che già già nel 78 nel fantastico e favoloso genere dei film poliziotteschi, e Mario Bianchi fece un film La banda Vallanzasca. Non vi muovete, ammazziamo tutti! L'avete ammazzato e vi costerà molto caro tutto questo. Lasciala a me, pensa a quell'altro. Anche se il titolo era La banda Vallanzasca, di questo genere fantastico che ha attinto a piene mani anche Tarantino, che giudica una delle forme espressive più felici della cinematografia internazionale, in realtà non si parlava, non si è mai accennato a Vallanzasca, avevano usato il titolo accattivante come si usava in quel tempo, hanno associato all'immaginario collettivo fortemente contaminato da Vallanzasca l'idea di un film poliziottesco, cioè di sparatori, banditi, poliziotti, sangue, rapine, senza nominare, però lo evocavano. Quindi era già stata fatta l'operazione agiografica, se vogliamo, di rappresentare il criminale italiano come una sorta di temerario eroe della parte oscura della forza. Federico, buongiorno. Buongiorno. Che ha fatto lei? Io ho prestato la mia autovettura d'epoca, una Citroen DS, per le riprese del film con Michele Placido in primavera e ho assistito alle riprese. Quindi, diciamo, King Rossi Stewart è salito sulla sua DS? No, in realtà la mia macchina è stata usata come traffico d'epoca, eravamo a pochi passi da loro durante la sparatoria dell'uscita da una banca. E gliel'hanno sbucherellata di rivolverate o no? No, per fortuna no, per fortuna no. È una grande macchina, è quella che si sollevava, vero? Esatto, che si alza quando si accende, sì. Noi invidiavamo tanto gli amici il cui padre l'aveva, perché aveva davanti praticamente un sedile che era un divano a due piazze. Sì, infatti è omologata per 6 posti. Chi aveva la DS stava tranquillo, non aveva problemi. Noi con la 500 e sedili ribaltabili fatti dal meccanico stavamo un po' peggio. Grazie. Usciamo da questa nota di colore, però era una testimonianza. Carlo Bonini, buongiorno. Buongiorno. Carlo Bonini, che è già stato ospite alla nostra trasmissione, è un giornalista che ha scritto assieme a Renato Vallanzasca Il fiore del male, che è il libro da cui si è ispirata poi la sceneggiatura del film di Placido, se non sbaglio. Sì, esatto. Ecco, tu questo libro l'hai scritto avendo anche un contatto diretto con Vallanzasca. Ti sei fatto un'idea sulla percentuale di agiografia che poi la memoria collettiva fa su questo personaggio, che non ha mai negato di essere stato un criminale, ma lo è stato in tempi talmente remoti che ha detto: io sto pagando il mio debito con la giustizia, oggi sono un'altra persona. Ma io, diciamo, ti parlo della sensazione che ebbi 10 anni fa, quando poi scrissi questo libro io lo scrissi quando Vallanzasca era non solo un ergastolano senza nessun tipo di beneficio carcerario, ma era un ergastolano di fronte al quale non si prefigurava neppure in ipotesi la possibilità di un ammorbidimento della sua condizione carceraria. Oggi, come probabilmente tutti ormai sanno, Vallanzasca gode del beneficio del lavoro esterno. Infatti lui si è sentito in dovere, in bisogno di rifare la prefazione di questo libro. Ci sono due prefazioni, quella di allora e quella di oggi. Sì, no, questo lo dico perché la sensazione che ebbi allora, che per certi versi ho ancora oggi con un elemento in più che poi ti dirò, la sensazione che ebbi allora è che quest'uomo, innanzitutto di un uomo stanco, cioè di un uomo comunque vinto dalla detenzione, e quindi di un uomo che in qualche modo era pronto a fare i conti con il suo passato. E quando dico fare i conti con il suo passato, intendo dire provare a raccontare la propria vita, la propria esistenza, paradossalmente nel tentativo di liberarsi anche dal mito che poi ha finito per schiacciarlo. Quest'uomo è un assassino, ha ucciso più volte, ha rapinato, ha seminato lutti nel paese, peraltro in un arco di tempo relativamente breve. Sì, lui tenta un pochino di dire che almeno l'ha fatto con una sorta di codice cavalleresco, sparava sì. In faccia, non alle spalle, ma sì, cambia lui, poco, diciamo, secondo me. Sì, sì, no, certo, diciamo, non, la, diciamo, la, è evidente che la, diciamo, il crimine in sé resta tale, resta la gravità, e quindi diciamo la, il debito nei confronti delle vittime e il debito nei confronti della collettività. Detto questo, dicevo, io ho avuto la sensazione che in qualche modo già all'epoca Pallanzasca fosse prigioniero di questo mito, un mito che aveva sicuramente contribuito a costruire intorno a sé, ma che gli era stato anche poi cucito addosso. Io più volte mi è capitato di dire in questi anni che se Pallanzasca, se, diciamo, se non fosse stato costruito, edificato il mito di Pallanzasca, probabilmente lui, come il 90% di, diciamo, di criminali che in questo paese si sono resi responsabili di reati altrettanto gravi, sarebbe libero ormai da anni. Sì, noi in Italia abbiamo un po' questa, sì, questo doppio passo. Sì. I crimini legati comunque al terrorismo di matrice politica comunque hanno poi visto i protagonisti giudicati, totalmente giudicati, a piede libero per una sorta di momento che c'è stato di necessità comunque di usare i collaboratori di giustizia in quella direzione. E quindi è facile vedere persone che hanno sparato in faccia, in testa, alla nuca, a personaggi noti della scena politica, sindacale o altre persone, via dicendo, normalmente a piede libero, partecipare a volte anche al dibattito politico, e di questo non ci facciamo scrupolo. Il criminale vero, puro, senza nessuna motivazione che fare i soldi, quindi criminale al 100%, ci dà un po' fastidio quando lo sentiamo parlare, anche se quello sta scontando tutta la sua galera. Sì, ma ti dirò di più, Pallanzasca, ripeto, oggi ha il, diciamo, gode del beneficio del lavoro esterno, Andraus, qualche ascoltatore lo ricorderà, diciamo i meno giovani, i più giovani no, ma sono uno dei più feroci e efferati killer delle carceri, l'uomo che uccide Turatello mangiandone il fegato. Certo. Andraus è libero da anni ed ha un profilo criminale non molto diverso da quello di Pallanzasca. Perché? E qui arrivo al punto, perché quest'uomo, dicevo, io ho avuto la sensazione, e su questo in qualche modo credo che sia poi l'elemento divisivo rispetto ancora all'uomo Pallanzasca, al bandito Pallanzasca, perché Pallanzasca, a differenza di molti, cioè direi di quasi la totalità di chi poi si è reso responsabile di crimini, ha sempre rifiutato di chiedere pubblicamente il perdono per ciò che ha fatto. Se lui ha detto che c'è questa cosa qua, che il perdono, che oggi è facile, che la prima cosa si fa prima ancora del processo, di essere giudicati, la gente chiede subito perdono tramite gli avvocati. Lui non l'ha voluto fare all'epoca, non lo ha voluto fare durante questi 30 anni di detenzione, e oggi però ha chiesto la grazia. Ha chiesto la grazia, ma io su questo, diciamo, in questo io vedo una qualche coerenza, anche perché il nostro è un paese su questo che secondo me continua a fare una gran confusione, e questo genera, diciamo così, poi ulteriore, riapre ulteriormente le ferite. E qual è allora il punto di coerenza secondo te? Ecco, il punto di coerenza è questo: il perdono, la richiesta del perdono è un fatto privato, il perdono si può chiedere e soprattutto si può o meno concedere. Diciamo che è diventata una prassi giudiziaria, la difesa mette subito avanti che ha chiesto, esatto, perdono. Mentre il perdono, ma è una paraculata, essere, lo sappiamo tutti, esatto, diciamo la verità. Esatto, mentre il perdono è un fatto privato, insomma io posso perdonare o meno chi ha ucciso un mio familiare, non sono tenuto a farlo, chi lo ha ucciso, diciamo così, non è tenuto a chiederlo quel perdono. Fermiamoci un attimo, Bonini, diversa, Massimo. Ecco, un secondo. Diversa è la grazia è la richiesta di un perdono di Stato, la grazia è la richiesta alla collettività, cioè chi non ha subito direttamente quel lutto, di chiudere, diciamo così. Chiede uno sconto perché dice, esatto, la parte l'ho fatta, se potete fatemi penare un po' meno. Massimo, velocemente. Massimo. Pronto? Sì, Massimo, qua. Salve, Massimo. Ecco. Ah, io ho avuto la possibilità di vedere il film Pallanzasca appunto a Venezia, sì, lunedì sera. L'ho trovato un film interessante, anche se vogliamo necessario, per fare chiarezza su un quindi periodo. Quindi a lei è piaciuto? Sì, Sì, a me è piaciuto generalmente, diciamo, sì, complessivamente mi è piaciuto. Non mi è piaciuto la figura un po' mitizzata comunque che nasce di questo bandito, e quindi capisco anche i parenti delle vittime che comunque lo trovano indirettamente come un'offesa alla memoria dei propri cari. Bene, allora vorrei aggiungere, Massimo, al suo giudizio, il giudizio di Luca Mastrantonio, il collega che stava poi qui nello studio accanto e ho coartato a venire qui in studio con me. Sta preparando Time Out, la sua trasmissione Radio 24 andrà in onda sabato 9:30, proprio dedicato a Schermi di piombo, quindi eravamo pienamente in argomento. Tu hai visto il film di Placido, qual è stato il tuo giudizio? Beh, io ho visto il film di Placido, poi abbiamo scritto anche su Riformista, il titolo era Il cinepanettone criminale. Un po' provocatorio, ma per sottolineare l'aspetto, secondo me, esteticamente più furbo, visto che si è detto che Vallanzasca non era furbo, Placido è furbissimo, molto paraculo come regista, alla proiezione stampa delle 9 di mattina, almeno in 10 occasioni ci sono state delle risate in sala per delle battute oggettivamente a cui si poteva non resistere, perché erano... facevano parte di questa operazione simpatia. Sì, poi ha fatto la vestale del pensiero laico, dice, sì, c'è più Placido, gente in Parlamento. Guarda, ti cito sì. Una battuta, peraltro in un milanese abbiamo sentito, importante il contributo del Vallanzasca vero, perché Kim Rossi Stewart al confronto parla come Zampetti. Fammi un o esempio. Cipollino. Ma per esempio quando devono decidere se rapire o no il magenta, sono lì attorno a un tavolo e dicono, ma allora il magenta lo prendiamo o no? No, bella, dai, fermiamoci qui che di soldini ne abbiamo già fatti, e fa un altro. Oh, ma in Brasile le ville costano, e quindi rapiscono il magenta perché in Brasile le ville costano. Quindi una cialtronata, diciamo. Beh, insomma, sì, un po' cipollino killer. Alla fine è un'operazione simpatia con un volto molto, molto accattivante, che poi è il freddo del più riuscito. Sempre ammantata però con un'operazione di profondo svelamento della verità o di impugnare. Beh, in realtà è un fotoromanzo che, come diceva Bonini, in realtà è un'operazione che ha sempre accompagnato Vallanzasca. Però io sono rimasto sbalordito dal registro comico. Un'altra battuta che fa in radio popolare quando si collega, gli dice, ma lei insomma ha anche ammazzato, ha fatto delle cose efferate, gli fa, e Kim Rossi Stewart dice, ma insomma non è che sono un cattivo, c'ho il lato scuro un po' pronunciato, e giù risate in sala. Ecco, questo è stato il Vallanzasca che io ho visto alla proiezione delle 9 di mattina. Placido ha dichiarato, leggo il titolo su un giornale, in Italia vogliamo solo vite dei santi, giusto un po' di pietas. C'è il senso della pietas in questo film? Per Vallanzasca, perché è simpatico. Cioè, no, c'è la simpatia che non è assolutamente la pietas, non c'è nessuna pietà, ammazza l'amico. C'è anche un po' una smargiasseria, una sbruffonaggine che è del personaggio. Di pietà qua non ce n'è assolutamente, si ammazza. Tu per Placido saresti uno dei falsi moralisti che lo criticano, una sorta di lesa maestà. Sì, una lesa maestà, però secondo me insomma lui è intelligente, furbo, è un uomo di cinema, c'ha uno stile, quello di romanzo criminale, forse è il film in cui è riuscito meglio. A me non era neanche dispiaciuto quello sul 68, dove la paraculaggine narrativa lo faceva stare prima dalla parte dei poliziotti, poi con gli studenti. Qui non funziona perché c'è una somma ipocrisia. Ora ci devono presentare un ladro come etico e bravo, non lo so, ma pure come simpatico mentre ammazza le persone, mi sembra appunto fuori registro. Infatti Bodini l'ha centrato in pieno il personaggio, sì. Sarà scritto un libro, poi un giornalista scrupoloso e tutto. È una persona il cui mito, creato anche da noi che ne parliamo e tutto, in certi momenti probabilmente gli avrà alleviato la pena, l'avrà riempito la sua vanagloria, ma è stato anche pesante per lui, perché l'ha messo in posizione di visibilità tale per cui se uno deve poi giudicare se dargli un beneficio ci pensa 100 volte. Questo è interessante, perché è quasi un prezzo che si paga inevitabilmente. Infatti adesso Vallanzasca non parla volentieri, noi l'abbiamo cercato, ha detto l'avvocato che preferiva non parlare. 800 24 00 24, l'argomento è Renato Vallanzasca, continuiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Email melog@radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Dunque, allora, ci sono vittime per le quali posso sentire una colpa pesante. Ci sono altre che fanno parte, anche se dire il termine gioco è un tantino fuori luogo, però il poliziotto che mi spara non poteva pretendere che gli mandassi mazze di fiori. C'ho 13-14 colpi addosso di arma da fuoco, quindi non ho mai fatto quello che, non per parlare male del brigatista, ma non sono stato quello che è andato a giustiziare quello che usciva con la moglie e il bambino andando al cinema. Io non ho mai sparato per primo, non ho mai sparato nella schiena alla gente, io con il mio codice deontologico sono a posto. Io voglio sempre avere l'opportunità di farmi la barba la mattina potendoci guardare allo specchio senza doversi sputare in faccia. figlio Massimiliano. Beh, questa frase che tutti nella vita abbiamo pronunciato più volte, evidentemente ha una gamma di relativizzazione nella sua intensità. Si fa la barba tranquillo Vallanzasca perché non ha mai sparato alle spalle, ha sempre fatto un faccia a faccia, ha giocato a guardi ladri, ha lasciato una scia di sangue, ha fatto il criminale e sta pagando per aver fatto il criminale. Crede distinguo, in fondo in questo non ha tutti i torti. Mi viene in mente, non so, Marco Barbone, un assassino ai tempi appunto del terrorismo, che ha sparato a Walter Tobagi, poi fece un matrimonio pubblico con tanti preti, perché si era pentito, era rientrato non so in quale abbraccio fraterno ufficiale, via dicendo, ma ce n'è una fila lunghissima, capito? Però Vallanzasca onestamente rappresenta in questo momento un punto dolente. Perché? Perché il suo problema è che di essere ancora vivo. La rappresentazione, il racconto, la storia romanzata, la rievocazione può essere fatto a bocce ferme quando il protagonista del male che viene rappresentato è morto. Si possono fare dei film su Hitler, naturalmente, perché fa parte del passato. Si comincia a far parte del passato quando non si appartiene più al mondo dei vivi. Finché si appartiene al mondo dei vivi, si è una presenza scomoda. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io innanzitutto vorrei farle i complimenti perché la seguo da tempo. Sì, ma tralasciamo i complimenti, rubiamo tempo preziosissimo. Esatto. Sono logorato e divorato dagli sforamenti di chi mi precede. Volevo semplicemente esprimere il mio pensiero nei confronti di Vallanzasca, come di Rina e come di tanti altri che poi sono stati romanzati e li hanno fatti assurgere a figure quasi mitologiche, perché poi quando viene realizzato un film con uno spessore, con dei sentimenti, con mille sfaccettature dell'animo umano, è ovvio che il crudele perde quelle che sono le sue prerogative basi, che sono la crudeltà, la ferocia, la cattiveria, la malvagità. Io o perlomeno sono... assume un fascino sinistro. Esatto. Quindi rimane. Io sono un grande sostenitore e profondo amatore del film Il Padrino. Però anche in quel caso la figura stupendamente interpretata da Marlon Brando era comunque quella di un delinquente. Se oggi parliamo con chiunque abbia visto il film, ricorderà di quel film il pathos, il sentimento, la presenza di questa persona indiscutibilmente così affascinante. Guardi, lei senz'altro ragione, Fabrizio, però io in cuor mio non me la sento di negare il diritto di raccontare in maniera romanzata qualunque cosa, qualunque fattispecie, qualunque persona. Esiste, grazie a Dio, il giudizio poi di chi legge, di chi ascolta, di vede i film, che può dire: hai fatto un'operazione secondo noi non esatta. Il film di Placido noi l'abbiamo visto, l'abbiamo criticato, ne abbiamo parlato. Diritto suo farlo, perché guai vietare. Ci fossero delle cose irraccontabili, vivremmo in un'epoca molto terrificante, molto triste. Penso di irraccontabile non ci sia nulla. Uno racconta e poi il consesso delle persone che seguono il racconto possono esprimere il loro parere. Corrado, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Salve. Anche lei ha un racconto, mi sembra, da farci. Sì, io sono un ex agente della stradale, come le avranno detto. Ho fatto il primo corso a Senigallia e ho avuto la disgrazia di avere un collega del compartimento poi ucciso, per esempio, dall'autista di Messina. Allora, e mi dolgo molto che in questa... Scusi, ho capito male, ucciso da? Dall'autista di Messina. Graziano Messina? Esatto, ah. 40 anni fa. Che ho conosciuto, fra l'altro, intervistato. Anche io, perché ho amici sardi che mi ospitano, che... mi hanno non costretto. Oggi tu mi sembra sia testimonial di qualcosa legato al turismo. Sì, lo fa, in Barbagia. L'ho conosciuto in questa occasione, però si è scontato 25 anni di galera e nessuno... Lui se n'è fatta tanta, devo dire. Esatto. Si è fatto pure 15 anni di latitanza da solo come in Cania, non che questo lo giustifichi. Sì, io sono andato a vedere i posti, diciamo, che era il suo territorio, mi sono passato una giornata insieme a Messina. Parlare adesso con un reduce, anche se autore di crimini veramente brutti, in effetti... Ma mai come Vallanzasca. Vada allo specifico della sua storia. Allora, questo suo collega è stato ammazzato, quindi... Sì, vabbè, lasciamo perdere la storia Messina, che si è, tra virgolette, riqualificato, perché scrive e vive anche di questo. Ma io mi vergogno quasi non ad essere italiano, ma no, ad essere queste frasi non le dico. Protetto da questo Stato che fa e permette che venga erto a quasi eroe un delinquente come... Però guardi, se mi permette, guardi, io ho una grande comprensione, mi rendo conto della sua, il suo punto di vista merita un rispetto che non è mai sufficiente l'attenzione. Lei, ma per me, per le famiglie, ma certo, delle persone, dei colleghi uccisi. Però vedi, io penso che il bello di vivere in un regime di libertà è che uno possa avere la libertà anche di fare una cazzata, di fare un film. Ed esporsi, fare un film che possa sembrare, o come ha detto Mastrantonio, una sorta di cinepanettone del crimine, o un ritratto che potrebbe offendere i parenti delle vittime. Ma se Dio vuole, c'è chi può giudicare, dire, esprimere il proprio parere. In fondo non è che si ammazzi nessuno. Se è un'operazione così, è un'operazione che giudica, se lei dice vergognosa, o triste, o squallida, o non appropriata, basta dirlo e l'operazione subisce anche l'effetto del pensiero che l'ha animata, del modo in cui è stata fatta. Secondo me ognuno dovrebbe fare e rappresentare, come meglio crede, tutte le realtà che ci ha dato modo di conoscere, e si deve avere grande libertà, grandi spazi, grandi supporti per poter poi dire ciò che non va in questa cosa. Io penso che cementare la memoria anche degli aspetti spiacevoli è brutto. Avere un giusto riserbo, una giusta indignazione di fronte alle geografie non proprie è giusto. Vede, lei sta parlando, sta esprimendo il suo parere, quindi mi sembra che la cosa abbia un suo senso, se non sbaglio, non so. Grazie. Perché sennò si creano le vittime, quelli che dicono questa cosa non mi è stato permesso di raccontarla. Tu racconta, noi diciamo cosa pensiamo del tuo racconto. Ma è questo che... Basterebbe che alla fine di questo film ci fosse una recensione che ricorda le vittime di Vallanzasca. Ma mi sembra che sia stata un'ampia presa di posizione di tutti i parenti delle vittime che hanno detto non è che siamo proprio... almeno loro. Ma giustamente, loro, ma noi stessi, io ho aperto questa missione qualificando come da Wikipedia il criminale italiano Renato Vallanzasca, quindi gli ho dato subito l'etichetta che nemmeno lui rinnega, capito? Però visto che appartiene alla realtà di questi giorni, alla cronaca di questi giorni, il dibattito, noi lo riportiamo dando modo a tutti di esprimere il loro parere e conservando e impugnando il nostro. Grazie. Vallanzasca rimane un criminale che mi ha fatto piangere per la rabbia, avendo ucciso uomini a me molto vicino, e ho visto i volti dei familiari, dei figli, delle mogli. Se devo definire Vallanzasca, mi spiace, un assassino. Il bandito dagli occhi di ghiaccio, il rapinatore... Ecco, Minori, magari sfumiamolo, perché non è in questo momento la cosa più opportuna da ascoltare, perché l'ho visto con il somarello in mano, con la figlia neosposa, Filicudi, che la portava verso l'altare. In questo momento non fa parte del contesto. Ecco, quello che avete sentito è Achille Serra, che è stato una sorta di antagonista ufficiale di Vallanzasca, che esprime il suo parere e parla la moglie di un agente ucciso. Quindi mi sembra che stamattina l'operazione di riequilibrio, non che siamo per riequilibri forzati in gestire tutti i costi, ma di ricollocazione in un contesto corretto della vicenda Vallanzasca, la stiamo facendo. 800 24 00 24, tra un istante, dopo l'informazione del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. On s'est connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Al di là dei reati più orribili che uno possa aver commesso, 35 anni di prigione sono una vita intera. Ero già in carcere da tempo quando il primo uomo è sbarcato sulla Luna. Non penso di dover giurare contrizioni e cambiamenti. Mi sembrerebbe ipocrita per le mie vittime e per i loro parenti. A chi deciderà di porgermi una mano, non darò mai modo di pentirsene, neppure vagamente. In fede, Renato Vallanzasca. Questo è il testo della richiesta di grazia di Renato Vallanzasca. Abbiamo al telefono Leonardo Cohen. Leonardo Cohen, buongiorno. Buongiorno. Claudio Cohen ha scritto L'ultima fuga, quel che resta di una vita da bandito, Renato Vallanzasca, da Lai Editore. Non so quanto è potuto seguire quello che abbiamo detto finora, ma sull'operazione in generale, su quello che aveva detto Bonini in prima parte, su questo mito che schiaccia in certi momenti con forza, ma in altri crea problemi al personaggio, cosa ne dici sulla tua esperienza e sul libro che hai scritto? Ma io ho voluto raccontare la persona, o meglio, la persona che cerca di essere portata fuori dagli psicologi dal personaggio. Certamente il mito lo schiaccia e certamente io ho pensato di raccontare una storia, perché la storia in generale è piena di persone da raccontare e da testimoniare, e attraverso il racconto ho cercato con molta decisione di non mitizzare Vallanzasca. E Vallanzasca con me si è sempre definito quello che è un criminale, un uomo che ha ammazzato. Anche con me ha detto quello che io ho ascoltato dalla vostra clip audio: non ho mai sparato per primo, non ho mai ucciso alle spalle. Non sono mai stato, come dire, d'accordo nel dire quando un bandito si scontra con le forze dell'ordine, quello è un gioco, anche se lui poi precisa che il gioco è una parola che non è adatta, perché non è un gioco. Diciamo che lui nasce in un clima di criminalità con delle regole, nasce dalla vecchia mala milanese, dal quartiere particolare di Milano dove era normale che accadesse questo, quindi è un po' la vecchia generazione in cui ancora esisteva questa cosa qua. Sì, ma non era un problema di storia, cioè c'è un pezzo di storia, noi stiamo parlando di 40 anni fa, c'è un pezzo di storia di Milano e anche nel nostro paese di anni di piombo, che non erano solo gli anni di piombo dei terroristi, ma anche gli anni di piombo dei criminali. Ci dimentichiamo che erano un periodo in cui rapine, sequestri, l'anonima sequestri, le rapine, le gang si scontravano, era un territorio, sembrava... E poi è un paradosso, non voglio dare nessuna lettura politica, Dio me ne guardi in questo momento, però diciamo era una criminalità di area padana che poi scendeva verso il sud, perché a un certo punto Vallanzasca esportò diciamo la sua attività e se ne andò in Puglia, adesso non ricordo bene esattamente. Quelli scappavano, avevano paura, avevano l'acqua alla gola, non riuscivano a lavorare, tra virgolette, a Milano, e avevano sempre bisogno di soldi, perché mi ha spiegato lui la latitanza è una cosa che costa carissima. Se certo. Tu paghi puoi star fuori, se invece non hai soldi sei morto. Devi pagare ogni giorno chiunque per esistere, se no non è possibile. Esatto, e devi avere 5 appartamenti, non uno, devi avere persone di cui fidare, devi dare, cioè, per cui loro hanno avuto, questa non era un'esportazione voluta, era una necessità logistica, però per me è stata un'operazione, come dire, di scandaglio. Professionalmente mi sono sempre interessate le figure un po' all'estremo, non all'estremo da una parte e dall'altra. Non ho trovato, come dire, degna di un paese normale la polemica e dire questo libro non doveva uscire, come è apparso sul Corriere della Sera a seguito di una lettera della Presidente. Sul tuo libro? Beh, sai, io ripeto, come ho già detto prima, è lecito che ognuno possa scrivere, ragionare, esatto, rappresentare come vuole, e si prende anche logicamente la sua. E concordo, mi sembra una posizione normale, sì, in tutto il resto del mondo. È lecito che tu lo faccia, ma anche è lecito che qualcuno se la possa prendere, tu rispondi. Esatto, cioè, ma poi soprattutto non mi sono piaciute le censure e le condanne a priori. Cioè, in genere io se vedo un film, se devo parlare di un film e criticarlo, prima vedo il film e poi dico quello che mi interessa. Se devo stroncare un libro oppure dire un libro che non va bene, lo devo leggere. Poi dammi atto, Cohen, alla fine anche la polemica più bieca, più strumentale, tutto permette di riportare per un attimo alla memoria fattispecie, momenti della nostra, sì, storia, che altrimenti non avremmo mai fatto. Non staremmo questa mattina a parlare di queste cose comunque, esatto, è bene che ne parliamo. No, no, ma io sono d'accordo che la memoria venga sollecitata, anche perché questo è un paese che ha una memoria talmente labile che si è già dimenticato quello che è successo 10 anni fa o quello che è successo. Esattamente, quindi io tutto sommato sono contento che ci siano dei sollecitatori di memoria, di qualunque segno siano, perché ci danno il pretesto poi di avere un argomento per riparlare di quella che era la Milano degli anni di piombo, non legati al terrorismo politico, ma legati a questa necessità di cavalcare il boom economico in maniera ancora più veloce di quanto lo cavalcassero gli speculatori e le bande, le cricche e via dicendo. Laura, buongiorno. Buongiorno, spero di riuscire ad esprimere la mia opinione prima che si scarichi il telefono, sono in linea da un quarto d'ora. Ecco, non ce ne faccio una colpa. No, per carità, è solo per il... Il tempo è crudele tirando, però dai, andiamo al punto. Dunque, dottor Nicoletti, io vorrei dire che non mi scandalizzerei più di tanto su chi ha voluto fare questo film. Mi scandalizzo su Valanzasca stesso, perché la mia opinione è assolutamente negativa nei confronti di questo personaggio, perché la vera fiction la sta recitando lui ora, come ha iniziato a recitarla con i suoi primi delitti, perché questo uomo è un uomo che continua a voler essere protagonista. Beh, adesso è abbastanza defilato, diciamo la verità. Ma adesso avrà un suo disegno, lui continua ad avere un suo disegno, perché lui ha rifiutato di chiedere perdono, però chiede la grazia, lui deve essere protagonista. Agli inizi forse sarà stato influenzato da qualche libro, da qualche film, da qualche... E questa cosa la indigna molto. Prego? La indigna molto. Ma sì, mi indigna molto e non gli crederò fino in fondo. Poverino, sa qual è l'aspetto positivo? È lecito che ognuno abbia un disegno per autosalvarsi, per autogratificarsi, per emergere sugli altri. È lecito che altri abbiano strumenti come lei in questo momento, se vuole, di indignarsi. Io non sono mai indignato di nulla, non mi scandalizzo mai di nulla. Io semplicemente riferisco, cerco argomenti, cerco connessioni, cerco non soluzioni ma sollecitazioni per riflettere, anche perché la memoria, come ha detto giustamente prima Leonardo Cohen, è così labile. Se ogni tanto non la richiamassimo in superficie saremmo veramente nascosti di tutto ciò che è passato. Ci sentiamo domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.